ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Ed eccoci. Eccoci qua. Bentrovate a tutte, come dice la sigla, questa è The Chart, ultima puntata dell'anno, che fa figo di lei, Andrea. Nel senso che torneremo in quel di gennaio, probabilmente vista la nostra cadenza quindicennale, riapriremo noi proprio l'anno, quindi noi oggi lo chiudiamo. Martedì però chiuderà settimana prossima e riapriremo poi a gennaio, vi sapremo dire quando. Se volete mandarci la vostra chart, lo sapete che lo potete fare, abbiamo un blog www.womenchart.wordpress.com. Sì, potete mandarci la vostra chart, quindi giocare da sole, in compagnia, in gruppo, insomma, secondo i vostri gusti, preparare una chart, magari caricarla su qualche luogo dove potete mettere la vostra selezione, la vostra musica, e noi ce l'ascolteremo. Oppure mandateci cassette. Oppure mandateci una cassettina di quelle che si registravano una volta, ma che abbiamo scoperto anche a The Chart che si registrano ancora in realtà, quindi... Come possono mandarcela? Qui in radio possiamo dare l'indirizzo della radio, dove potete anche venirci a trovare, portarci le birre, le patatine, che quelle non ci dispiacciono mai. Esatto. L'indirizzo? Via dei Volsci. Via dei Volsci. Beh, si trova la radio di fronte al Marani, la trovate. Ma Civico non me lo ricordo. Neanch'io in realtà. 56. Via dei Volsci 56, insomma. Potete spedirle qui a Roma e insomma ci attrezzeremo per ascoltarle e per mandarle in onda. Allora, noi facciamo questo gioco che molte di voi che ci seguono assiduamente, le nostre fan che ci seguono, ormai lo conoscono. Non ridere, che ce le abbiamo, è vero. Lo conoscono. Per chi non lo conoscesse, giochiamo con la musica, con le donne, con le artiste, le compositrici, le musiciste, e troviamo tra di loro le connessioni, non solo sessuali, come dice ironicamente la nostra sigla, ma appunto un po' tutte le connessioni, anche le nostre connessioni, magari tra un artista e l'altra, e questo è il gioco che andrà avanti fino alle 18.15. E stiamo non fermando mai, tipo Bob Dylan in Never Ending, non stiamo fermando mai le connessioni, nel senso che ripartiamo sempre... E per la nuova puntata dall'ultima artista che abbiamo ascoltato nella scorsa. Trovate appunto tutti i podcast, per cui potrete verificare che è vero quello che vi sto dicendo, non è una bugia. Non raccontiamo stupidaggini. No, e in effetti mi ha messo un po' in difficoltà l'ultima volta, perché la quinta chart che abbiamo insomma concluso un paio di settimane fa finiva con un pezzo piuttosto singolare, The National Jazz Trio of Scotland, e una versione acustica di Jingle Bells, quindi insomma non era proprio semplicissimo. Natalizio. Sì, insomma non era semplicissimo agganciare qualcosa che andasse fuori, no? Per poi dallo stereotipo delle Christmas songs, insomma delle canzoni natalizie. Io intanto mi sono documentata su Jingle Bells, di cui sapevo pochissimo, insomma, data la mia scarsa attitudine alle canzoni di Natale, e ho scoperto che è stata scritta nel 1857, insomma, è un pezzo di tempo fa. E in realtà inizialmente è stata composta come canzone per il giorno del ringraziamento, non per il Natale. Poi per qualche strano motivo che non si spiega, in giro su web non ho trovato una notizia che legasse questo spostamento, diciamo, di festività, probabilmente la neve, le campane, l'atmosfera che descrive poi l'ha fatta posticipare al giorno di Natale. In ogni caso, dal National Jazz Trio of Scotland, appunto la versione acustica di Jingle Bells, arriverò a Björk e ad Ant. Insomma, il primo pezzo che apre Homogenic, insomma uno dei suoi album anche più che ha più spaccato da un punto di vista della notorietà. E beh, Jingle Bells è decisamente una canzone notissima, nel senso la conosciamo tutti, ma non solo, è stata interpretata penso da centinaia di artisti e di artiste, tra cui appunto leggevo Judy Collins, Ella Fitzgerald, insomma Ella Fitzgerald, sì, penso che abbia cantato tutto, anche la Teresa, cioè tutto, quindi anche Jingle Bells. E spulciando un po' tra le varie connessioni, comunque è sicuramente venuto bene, l'ha sicuramente trasformato in un capolavoro, sì, probabilmente è così, io non l'ho sentita, però devo ammetterlo. In ogni caso, a un certo punto questo Jingle Bells finisce anche in una puntata dei Simpson, in cui Bart fa una versione, la puntata si chiama Simpson Roasting on an Open Fire, e in questa puntata, appunto, è una sorta di puntatona speciale del Natale, Bart appunto canta una versione di piuttosto stravolta di Jingle Bells. In questa puntata mi ha attirato la mia attenzione, molto particolare, è uscita nell'89 e aveva praticamente come protagonisti, era girata in Islanda e quindi aveva protagonisti gli emblemi, diciamo, dell'isola sostanzialmente, cioè i Sigur Rós e Björk. E quindi, insomma, la connessione è venuta fuori. Björk in realtà appare in una piccola scena soltanto per qualche secondo con il suo abito, quello da cigno bianco, e appunto appare con un cartello vicino scritto Björk, però insomma mi sembrava uno spunto carino, e quindi legare Jingle Bells con questa meravigliosa cantante appunto islandese e il suo pezzo che si intitola Hunter. voilà, Hunter. Tutta fino all'ultima nota. Beh, Bjork, la, no, Bjork. La Bjork. La Bjork. Vabbè, insomma, stavamo dicendo, noi chiacchieriamo e ascoltiamo musica durante i pezzi, stavamo dicendo che Bjork ha un passato glorioso, nel senso che ha anche un passato punk islandese, cioè fare punk in Islanda è una roba seria, non è che... Sì, sì, perché là o fai punk o fai poi come Sigur Rós, appunto, quel suono onirico per cui... le montagne, insomma, la neve, le distese. Vabbè, lei in qualche modo ha avuto una trasformazione elettronica molto interessante, nel senso che partendo dal punk... Ma io poi... ascolto elettronica perché ho imparato dalla musica di Bjork. Ti ha educata Bjork? Sì, all'elettronica sì. Io prima io venivo dagli anni 60 hippie americani, quindi cioè tutta il cantautorato piuttosto che la psichedelia. E poi quando ho iniziato ad ascoltare Bjork, piano piano sì, mi ha educato i suoni elettronici e io da allora ho imparato ad ascoltare elettronica. Questa è una cosa di cui dovremmo parlare qualche volta, magari dedicare una chart alle aperture, diciamo, fatte, no, è vero, dalle artiste sì, che poi magari ti hanno aperto una strada, un mondo di genere, no, di genere musicale, molto bello. E tanto poi io, c'è stato un periodo che seguivo così tanto Bjork che a un certo punto appunto poi ho comprato i dischi dei Matmos, che stiamo parlando di elettronica concettuale, quella che veniva chiamata qualche anno fa elettronica concettuale, tipo i Furtette, poi tutta quella branca, io li ascolto, ho imparato ad ascoltarli da Bjork. Bjork. Che donna. No, vabbè, un artista che nonostante il suo caratteraccio invece ha fatto un sacco di collaborazioni nella vita. Io di questo mi sorprendo sempre, nel senso che chiunque ha a che fare con Bjork, intervistatori, registi di video, eccetera, dicono che è un personaggio terribile, no? Insomma, piuttosto difficile da gestire o comunque con cui avere a che fare. E però, se vai a guardare la sua carriera, ha avuto nella sua carriera, cioè ha collaborato con tantissima gente, quindi gente. Forse insomma tantissima gente ha un'altissima stima di lei, a cominciare da Thom Yorke per esempio, Radiohead, cioè, tantissimi, ma poi ha collaborato con Madonna, no, se li elenchiamo finiamo The Chart domani. Non riusciamo più. Bisogna saperla prendere forse. Forse bisogna saperla, vabbè, poi comunque parliamo di un artista che ha vinto una quantità di premi infiniti. Vabbè, è molto, poi è chiaro, la musica sono sempre gusti, questo è indubbio, però riconoscere lo spessore di un artista diventa inevitabile, cioè è chiaro che Bjork ha messo in campo delle sonorità che comunque altri non avevano messo in campo, non in questo modo, non con questa commistione anche tra classica, jazz, piuttosto che elettronica, perché lei girava un po', basta ricordarsi quel pezzo di Post, It's So So Quiet, che c'aveva l'orchestra che suonava, quindi insomma l'esperimento le ha provate tutte, nonché gli album completamente vocali, tipo gli ultimi. Vabbè, veramente una di quelle che si chiamano le artiste d'avanguardia, ecco, lei è un'artista d'avanguardia. E un'altra che ha sperimentato tanto è in realtà... l'artista che metterò io, ce l'ho fatta, è Joni Mitchell, altro mostro sacro della musica, anche lei una carriera lunghissima, ancora in attività, avevamo ricordato due puntate fa di The Chart quando era venuto fuori il suo nome, che stava per compiere i 70 anni, e in realtà ci sono arrivate in modo molto semplice, perché Bjork tra le sue numerose interviste comunque ha sempre in qualche modo tirato fuori tra le sue influenze appunto Joni Mitchell, anche perché probabilmente anche per questa sua capacità molto versatile di cambiare anche stile e modo. Se si ascolta la Joni Mitchell di Blue non è la Joni Mitchell di Night Ride Home o di Mingus, che per esempio è la canzone cioè il disco da cui io tratto la canzone che vi farò ascoltare, che ascolteremo. E lei ha suonato proprio per, evidentemente, per palesare anche questo tributo a una grande artista in un disco tributo a Joni Mitchell nel 2007, dove cantò la seconda traccia del disco scusami, io non ci vedo, prendo gli appunti, poi sono completamente ormai cieca, che si chiama The Bow Dance, cioè il computer è scritto in carattere 12, non vedo nulla. E infatti, quindi io ho deciso di mettere Joni Mitchell un po' perché la volevo mettere da tempo e perché penso che nelle nostre chart ci a parte che di qua e di là è sempre venuta fuori in qualche sempre modo entrata. Perché comunque parliamo di un artista che veramente ha suonato il pianoforte, quindi tutta quella parte di artiste da Tori Amos in su in giù che si sono cimentate col pianoforte in qualche modo, e le canzoni poi pop in qualche modo le sono debitrici, e ha scavalcato e girovagato per vari generi, appunto, da un inizio molto folk, poi c'è stato un periodo in cui lei insomma si è affascinata, è stata affascinata dal jazz, e ovviamente in quel periodo non è che giravano proprio 3-4 musicisti inutili nel senso, e Mingus, che invece era affascinato da lei, dalla sua voce, dalla sua capacità compositiva, scrisse per lei delle basi musicali, cioè dei pezzi musicali, e a cui poi Johnny cominciò a scrivere i testi. E purtroppo Mingus morì prima che riuscirono, insomma, a vedere finito il lavoro all'inizio del gennaio del 79, perché aveva comunque una malattia da diverso tempo. Johnny Mitchell comunque portò a fine il progetto, e poi insomma si trovò davanti alla scena e dice: vabbè, ma con chi lo suono? Al basso, chi potrei mettere? Al basso chi ci metto? Cioè, giustamente era morto Mingus, che contrabbassista, no? Cioè, ma ci metto Jacopo Astorius, un altro nome così, cioè, che non so, per le nostre ascoltatrici forse non è esattamente noto, sempre perché questi musicisti che suonano strumenti che non sono, diciamo, quelli super popolari, magari non vengono conosciuti, anche se Jacopo Astorius è stato uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi, esatto. Non è che c'è poco altro da dire. Poi ci suonava un certo Herbie Hancock alle tastiere, Wayne Shorter al sassofono, Don Ellis, sono una sorta di dream team, per dire. Don Ellis alle percussioni e Peter Erskine alla batteria, e con questa praticamente formazione super incise questo disco, che chiamò appunto Mingus, dove c'erano i pezzi musicati da Mingus con i testi scritti da Johnny Mitchell, tra cui questa canzone, The Dry Cleaner from Des Moines. No. Keep you reaching for your wallet here in Fool's Paradise. I talked to a cat from Des Moines. He said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got 3 oranges, 3 lemons, 3 cherries, 3 plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. Like Midas in a polyester suit. Fill the room with empty balloons. The cleaner was pitching with her questo fine di basso. Che meraviglia. Sì, stavamo dicendo che la sua voce in effetti cambia, no? Cambia molto. Spessore in questo album, insomma, diventa più jazzy, più, insomma, un po' più sottile rispetto ai toni che di solito più bassi, che di solito prende più rocky. Joni Mitchell, insomma, mi ha fatto, intanto sicuramente te l'ho detto, lo ridico, io sono del 73. A parte le cose che avevo, diciamo, dei più grandi di me quando ero più piccola, il primo disco di Joni Mitchell ho comprato io personalmente, il disco vinile che ho ancora, era Night Ride Home, che ti dicevo prima, che è del 91. Secondo me è un bellissimo disco, con degli arrangiamenti stupendi, dei pezzi stupendi. E una delle canzoni mie preferite di questo album era Cherokee Louise, non so se te la ricordi. Cherokee Louise è una canzone che racconta la storia di una bambina, anzi di un gruppo di bambini, insomma, che giocano insieme, e una di loro, appunto Cherokee Louise, quando torna a casa trova un padre adottivo che la abusa sessualmente. È una canzone molto dolce da un punto di vista della musica, dell'accompagnamento, dell'arrangiamento. Le sonorità sono molto tenere, quindi se non leggi il testo, se non vai a cercarti, insomma, il testo della canzone, è difficile intuire di che cosa parli in realtà, di una cosa, di una violenza, di un abuso. Cercando in rete, insomma, così rispetto a questa canzone, ho trovato in effetti un blog interessante, si chiama Everyday I Write the Blog.blogspot.it, ed è il blog di uno speaker radiofonico americano che in questo articolo raccontava di avere avuto delle lamentele sul suo blog, delle mail molto aggressive, molto violente, che lo rimproveravano di avere mandato questo pezzo, cioè Cherokee Louise, in onda in radio il giorno della festa del papà, come una cosa, diciamo, insomma, offensiva nei confronti dei papà. E lui nell'articolo, insomma, in cui racconta questa avventura, dice: io in realtà non mi ero mai preoccupato di guardare questo testo, mi piaceva la canzone, neanche lui, americano peraltro, e quando gli avevano fatto notare, insomma, è andato lì a controllare, insomma, e da lì si è aperto tutta una discussione su se fosse giusto o non giusto. Ovviamente alla fine, insomma, concludeva che non c'era niente di male, nel senso che è questa la realtà, quindi raccontarla, poi raccontarla attraverso una canzone così bella, ci stava tutta. Cherokee è il mio legame con il prossimo pezzo, che sarà Florence and the Machine, Kiss with a Fist. Come? Cherokee, la canzone di Joni Mitchell e dell'album, insomma, che ho io, e mi ha fatto pensare ai Cherokee, insomma, al popolo, alla tribù di indiani nativi americani, che ancora oggi, insomma, esistono in tre nazioni distinte riconosciute dal governo americano. In totale sono circa 250.000 persone che vivono tra l'Oklahoma e il North Carolina. E proprio l'Oklahoma, Cherokee e l'Oklahoma, e poi la successiva connessione che ho utilizzato, perché in questo periodo sto guardando una serie molto carina, molto politically correct, si può dire correct, che si chiama Saving Grace, genere di serie, insomma, molto poliziesca, molto, molto scorretta, devo dire, in tutti gli aspetti, dal sesso, dalla promiscuità, dalla violenza, eccetera. E la cosa che mi ha fatto interessare, che mi ha fatto volerla vedere, questa serie a cui poi mi sono appassionata, è che la protagonista è un irriconoscibile Holly Hunter. Te la ricordi Holly Hunter? Te la ricordi sicuramente, appena ti dirò, che era la protagonista di Lezioni di piano, il grandioso film di Jane Campion, vincitrice di tantissimi premi negli anni 90, non mi ricordo esattamente quando è uscito. Lei è, insomma, ormai c'ha anche una sua certa età, intorno ai 50, è intanto bellissima, ma è irriconoscibile, cioè è una piccoletta, perché lei è molto piccolina fisicamente, tostissima, muscolosissima, nervosissima, che fuma e beve un casino tutto il tempo, è veramente molto divertente. Quindi vi consiglio di guardarvi almeno un pezzettino, così per farvi un'idea. Si chiama Saving Grace, questa serie TV, in questa serie lei ha una relazione con il suo partner, l'altro poliziotto che lavora con lei, piuttosto burrascosa, diciamo. Hanno queste sedute di sesso veramente straordinarie, in cui saltano sui letti, i lampadari, eccetera eccetera, per cui questo, diciamo, questa relazione molto rock and roll, molto movimentata, mi ha fatto pensare a questo pezzo di Florence and the Machine che si intitola Kiss with a Fist. Me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I Voilà. Beh, stiamo spaziando anche oggi tra i generi. State ascoltando The Chart, sono le 17:52. Siamo più o meno a metà della nostra puntata, del nostro viaggio odierno. Vi ricordiamo che potete trovare tutti i podcast sul nostro blog womenchart.wordpress.com oppure sul blog dell'MFLA, che è mfla.noblogs.org. E io invece arrivo, ricambiamo genere un'altra volta. Io invece vi farò ascoltare Etta James. In realtà ci sono arrivata per una di quelle che secondo me stanno le famose leggende del metropolitane rock. No, quelle che insomma non si sa se sono vere, però sono fighe, quindi è bello raccontarle. Esatto, quelle di cui la musica praticamente è piena. È vero, è strapiena. Allora, perché questo gruppo, che tra l'altro comunque è giovanissimo in realtà, almeno discograficamente parlando, è coordinato da Myriad Nash, che è una delle componenti del duo DJ Queens of Noise. Mm-hmm. Allora, lei dice di aver allora, comunque leggenda narra che Nash ha deciso di insomma essere di dirigere e coordinare il gruppo quando in uno dei suoi nightclub una notte una poco sobria Florence la trascinò dal bagno e le cantò la canzone Something's Got Hold on Me di Etta James. Vero, è una bella leggenda. Vero, non vero, chissà. Che ce frega, bella. Infatti sì, sono quelle famose leggende per cui dici vabbè dai, su, è carino pensare che sia andata così, no? Beh, carino anche pensare di attirare l'attenzione discografica. Mi metto a cantare un attimo. E che possiamo dire di Etta James? Un'altra figura per cui biografia infinita e oltre. E tra l'altro è morta da pochissimo, insomma a gennaio del 2012, quindi esatto un anno fa. Carriera super super super lunga, iniziata nel 1961 e con una quantità di dischi fino al 2011 che non li ho neanche contati perché sono veramente una cosa impossibile da contare. E quindi tra scegliere e non scegliere ho pensato, ma sì, andiamo con quello che ha dato il via, insomma quello che ha dato il via, che era il primo album, che era At Last, è ovviamente il singolo, tra l'altro, che appena voi la sentite adesso la riconoscerete perché è stata ed è ovunque questa canzone, dalle pubblicità ai film, piuttosto che, quindi sentita, risentita, cioè quello che oggi chiameremo praticamente un classico, ormai è diventato un super classico. Ed anche che ebbe un successo strepitoso, cioè nel senso che all'epoca la lanciò in maniera planetaria. Esattamente. E quindi adesso ce l'ascoltiamo e voi vedrete che la riconoscerete subito. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that insomma, una canzone che in qualche modo è anche estremamente per questo periodo, no? Infatti penso che si senta molto, sai, con quelle compilation natalizie dove magari appunto non ci sono solo le canzoni di Natale, ma ci sono tutte quelle canzoni che comunque ti restituiscono quell'atmosfera romantic, un po' che tipo piove o nevica, più nevica in realtà che piove. E veramente noi siamo in t-shirt, cioè, non nevica per niente, fa un caldo, noi siamo in t-shirt e stiamo dicendo fa un caldo terribile, almeno qui in radio fa caldo, non so, sì, da voi almeno noi due qui dentro nello studio stiamo morendo di caldo, e la musica, e la musica che ci riscalda, sì, effettivamente quello è vero. E quindi Etta James, ricordiamo che abbiamo iniziato con Björk, abbiamo ascoltato Joni Mitchell, poi siamo passati a Florence and the Machine, abbiamo ascoltato Etta James, e adesso che succede? In effetti adesso succede una cosa un po' strana, nel senso che andiamo ad ascoltare Maria Malibran, che forse poche di noi conoscono, anche io non la conoscevo, l'ho scoperta attraverso la chart, perché la chart ti aiuta, migliora la tua vita, ti fa scoprire cose nuove, allarga gli orizzonti, sappiatela questa cosa, perché anche a noi, insomma, comunque siamo appassionati. Ti fa restare giovane. Ti fa restare giovane. Non c'è bisogno di andare a fare yoga, fai una chart. No, nel senso che anche noi comunque ascoltiamo tanta musica e siamo appassionate, insomma, di quindi scarichiamo tantissimo, poi spesso attraverso questo gioco di ricerca, di approfondimento, insomma, seguire una pista piuttosto che l'altra come delle investigatrici, ci fa arrivare poi a delle connessioni particolari che ci fanno scoprire delle artiste, e questa è una cosa bellissima. Anche perché poi diciamo che poi è anche un gioco tra noi a chi la spara più grossa e a chi mette più in difficoltà l'altra, ovviamente. Esatto. Potete giocare anche voi così, ve l'abbiamo già spiegato. Sì, in effetti è così. Io insomma ho provato grosso piacere a mandarti questo messaggino, che sapete che noi non ce le spieghiamo le cose, ci mandiamo i messaggini, quindi insomma è anche abbastanza così out of the blue, all'improvviso, mentre stai bevendo una birra con una compagnella, putta, arriva che so un pezzo e dice: e questa chi è, mo? E quindi insomma è abbastanza divertente. Insomma, Etta James era in realtà una voce contralto, è una cosa, tu hai detto alcune cose di lei, ci sarebbe tante cose da dire, però insomma le potete cercare da sole. Era una voce contralto e mi sono un po' andata a documentare rispetto a quello che è il termine contralto, no? Che in realtà è il termine che nell'opera, insomma, nelle voci della lirica è quella che definisce la voce più grave femminile, cioè quella che riesce a prendere le tonalità anche più basse, che ha un registro, esattamente, ha un registro molto molto particolare. In realtà poi ho scoperto, approfondendo questo argomento, che sostanzialmente il termine contralto con il tempo è scomparso ed è stato sostituito da quello che è ora il mezzo soprano. È interessante, è molto femminista, ho scoperto in realtà che raccontare del contralto è una cosa molto femminista. Perché? Perché l'equivalente del contralto negli uomini, ovviamente stiamo parlando del barocco, eccetera, eccetera, quindi molti secoli fa, era il castrato, la voce castrata. Quindi i registri vocali delle donne cantanti contralto erano imitati dai castrati, e quindi in qualche modo, come sapete, dei castrati famosi ce ne sono tantissimi, di contralto famose quanto i castrati ce ne sono pochissime. Quindi insomma questa cosa mi ha intrigato ovviamente, e ho scoperto un bellissimo libro scritto da due autori che si chiama Ermafrodite armoniche. E pare che questo fosse un po' il termine con cui si definiva intorno all'Ottocento le voci di queste donne, che in qualche modo erano, no, insomma, per ricalcare questo parallelo con la voce degli uomini. Ma in realtà Maria Malibran, che vi farò ascoltare più avanti, e altre contralto famosissime, appunto sullo stesso livello, ma per esempio secondo Rossini Maria Malibran era un genio, quindi molto più in alto di cantanti come Farinelli, che invece hanno avuto più successo e più fama anche nei nostri tempi. E insomma praticamente la fortuna della voce contralto è caduta in disgrazia durante il Novecento, perché l'androginia di questa voce, che era in grado femminile, che era in grado di interpretare nei ruoli appunto dell'opera degli acuti ma anche dei toni molto bassi, praticamente a un certo punto non si scrivevano più parti per i contralto, quindi insomma il contratto vero e proprio in qualche modo è andato a scomparire. Ci sono molti artisti, è veramente un argomento molto interessante, ho scoperto, quindi insomma lo studierò e poi vi racconterò anche meglio più avanti, magari se troveremo altre connessioni, perché ci sono molti artisti anche contemporanei che invece si battono perché questa definizione di contralto caduta in disuso e quel tipo di vocalità sia ripresa, sia riaffermata e si riutilizzi nell'opera più spesso. E intanto vi racconto di Maria Malibran, che era una voce contralto, nata nel 1808 e morta a solo 28 anni nel 1836 per una caduta da cavallo, e pare che fosse veramente una straordinaria interprete, compositrice e musicista, perché suonava l'arpa, suonava il pianoforte, suonava la chitarra. Ha scritto tantissimo Maria Malibran, nonostante abbia vissuto soltanto 28 anni, e a 27 anni si fosse anche ritirata dalle scene, perché ormai aveva già dato tutto. e quindi insomma è veramente un personaggio da scoprire, lo scopriremo magari più avanti in altre connessioni. Il pezzo che vi faccio ascoltare, che mi ero fatta dire, come si diceva, ma me lo sono ovviamente dimenticata, è Le Cossè, che significa lo scozzese, è scritto da Maria Malibran, la musica è scritta da lei, e in questa interpretazione, perdonatemi se non riesco a trovare che è una interpretazione registrata live, vi dirò la voce di chi la canta, perché ovviamente non è Maria Malibran, ma più avanti, perché la devo ritrovare. Maria Malibran. Adieu, riche campagne, n'espère plus me servir en ce jour. Adieu, cité, adieu, riche campagne, j'entends Tanto di applauso. Con tanto di applauso, sì, la voce era Alfred Schmid, che è appunto una cantante tedesca. Esatto. Allora, stavamo dicendo che lei ha avuto una carriera lunghissima e appunto ci spiegava Donna questo fatto della voce. La sua ultima, comunque nel suo repertorio, ha fatto anche Romeo. Lì ovviamente Giulietta e Romeo, solo che l'opera chiaramente non era di, in questo caso il riadattamento ad opera era di Vaccai e lei interpretava appunto Romeo, e questa è la mia connessione perché io a un certo punto sono arrivata ai Garbage, che qualcuno dice vabbè come caspita ci sono arrivata fino a laggiù, però ve l'abbiamo detto che è un gioco di connessioni anche che vanno così, anche a intuizioni o a... Ah, così in momenti di fantasia e insomma l'opera che aveva tra cui nel repertorio di Maria Malibran era Giulietta Romeo del compositore marchigiano Nicolò Vaccai. Il libretto era scritto da Felice Romani, si basava su una tragedia di Luigi Scevola che era tratta dall'omonimo lavoro di, eccolo appunto, è arrivato l'amico William, ovvero Shakespeare. E di Romeo e Giulietta ne esistono versioni appunto e versioni, a partire da queste per l'opera, da quelle per il teatro, che quelle sono quelle insomma native, a quelle cinematografiche. E di quelle cinematografiche ovviamente non ce n'è solo una, ma l'ultima, diciamo in ordine di tempo, rivisitazione in chiave postmoderna con il super attore allora giovanissimo, perché parliamo del 96, super attore di Leonardo DiCaprio, che secondo me è anche un grandissimo attore, lo si può vedere nei film di Scorsese, insomma. Questa è un'altra diatriba su cui intanto sei passata così veloce sul fatto che Maria Malibran abbia fatto Romeo in Romeo e Giulietta. Dice cioè, che era un dato. Fosse, diciamo. E poi me l'abbiamo spiegato perché lei era contralto, quindi aveva le voci basse, aveva addirittura la voce del baritono, quindi insomma, e sì. Quindi giustamente faceva Romeo, diciamo, tu fai Romeo perché... visto che la voce ce l'hai, cioè, vedi un po' che devi fare. Beh, ma secondo me erano molto più free in realtà, che poi deve essere da lì che viene il famoso detto gli artisti, insomma, dici, fanno un po' una volta quando... no, che possono fare quello che vogliono, no, anche giocare appunto con ruoli e quindi col genere. Insomma, c'è sempre stata questa idea che l'artista è una persona libera in quel senso, no? Anche questo luogo comune, diciamo, perché poi in realtà appunto le donne non potevano fare teatro fino a un tot, per cui appunto erano gli uomini che recitavano le parti femminili, però allo stesso tempo se uno la vedesse in ottica molto moderna queer, secondo me erano i soldi. Sono sempre stati i soldi a fare la differenza. Ma non essere materialista. No, voglio dire, nel senso, cioè, quando eri un artista, però un artista con una famiglia alle spalle, in qualsiasi epoca, un po' anche adesso è così, tutto sommato potevi fare un po' il gioco è un po' più facile, un po' più... No, vabbè, quello è sicuro. Però è vero che c'erano queste cose, ci sono state queste cose nella storia che comunque è quel pezzo di cultura che inevitabilmente in certi modi ha rotto gli schemi, sommandole nella storia individuale di ognuno, poi nella storia delle storie, secondo me, su quelle cose che poi non per niente quando cerchi e ricerchi la tua storia trovi queste storie, no? Personaggi che hanno fatto questo o perché artisti o perché no, però chiaramente che sono, insomma, in qualche modo ci hanno dato una mano, va, a arrivare dove siamo arrivati, insomma, sì, perché ti facevo antipatia di Caprio. Ho cercato di sviare. Invece è un grandissimo attore, questo io da lesbica lo ricordo, un grandissimo attore secondo me, molto molto bravo, e insomma lui giovanissimo fece queste, recitò appunto nella rivisitazione di Romeo e Giulietta, la regia era, me lo sono riperso, me l'ero aperto, Baz Luhrmann, bravissimo, ti vedo preparata. Sì. No, perché mi piace il regista, insomma, ero curiosa quando è uscito questo film di vedere la sua trasposizione cinematografica. Un po' deludente. A te è piaciuto invece, immagino. No, però conosco una persona a cui è piaciuto tantissimo. A me in realtà io credo di essermi addormentata a metà quando ho provato a vederlo, ma io ho un problema con il cinema, mi piace tanto la musica, ma col cinema ho un rapporto conflittuale, per cui sì... Mi astengo anche molto spesso dal dare troppi giudizi. Tendi all'assopimento, diciamo. No, non quello no, però mi astengo da dare giudizi. Mi sento più critica musicale che cinematografica, quindi insomma non mi esprimo più di tanto. Insomma, nella colonna sonora di questa rivisitazione postmoderna di Romeo e Giulietta, che ebbe all'epoca nel 96 tantissimo successo, aveva ovviamente una colonna sonora molto moderna, nel senso che ci suonavano appunto band del rock e del pop, diciamo abbastanza, appunto i Cardigans tra gli altri, c'è stavano i Radiohead, Battle Surfers, che sono una band americana che mi piace tantissimo, super pazza, esatto, con Whatever I Had a Dream, e ci suonava appunto nella colonna sonora ci stavano anche i Garbage, che stavano lì al loro primo disco, il loro primo singolo tra l'altro, che è appunto questo Crash Number One, che è quello che ci andiamo ad ascoltare adesso. For you, I would. Questi erano i Garbage con il loro primo singolo, Crush Number One, tratto dalla colonna sonora di Romeo plus Juliet, plus, che era appunto plus e più, che sarebbe il più, sì, così si chiamava, però Romeo più Giulietta, va bene, sì, così. Sì, okay. La rivisitazione postmoderna di Lurman, e sì, era una colonna sonora appunto, come tu raccontavi, chiaramente tutta moderna, piena di band anche abbastanza interessanti, particolari, insomma. L'ambientazione sicuramente mi è piaciuta molto, il film mi ha deluso un po', però l'ambientazione era molto bella, anche insomma la scelta della musica sicuramente molto audace, e secondo me zio William avrebbe approvato, diciamo, la trasposizione cinematografica, decisamente ricca di band, e come dicevi tu prima, una delle band che aveva dato insomma un suo pezzo a questa colonna sonora, uno dei, diciamo, dei singoli penso più famosi, Love Fool, i Cardigans, insomma, che faceva parte di questa colonna sonora. E questo qui arriva la mia connessione con i Garbage, arrivando appunto a Nina Patterson, che è la voce bellissima, dolce, melodica, pop, suadente dei Cardigans, che ha una carriera sia con questo gruppo che esiste ancora, sia da solista, insomma in questi anni, gli ultimi anni ha inciso un paio di album da solista anche abbastanza apprezzati, visto che fa un pop molto, molto piacevole, molto melodico, e ha fatto anche, stavo guardando nelle sue notizie, una serie di partecipazioni pure lei, insomma, con questa voce molto versatile, in un sacco di altri dischi, che ne so, Manic Street Preachers, mi veniva, insomma, leggevo, e tante altre cose. Una cosa che ho scoperto e che non sapevo invece è che la sua voce è una cover cantata da lei di una band americana che si chiama Restless Heart, è stata utilizzata per un film, insomma, che forse molte di noi conoscono piuttosto bene, che è Boys Don't Cry, è appunto un film del 99 diretto da Kimberly Pierce, interpretato da Hilary Swank e Chloe Sevigny, insomma, che raccontava la storia di Tina, diciamo, di Brandon Tina Brandon, appunto una transgender che purtroppo nella la sua vita, insomma, prende una piega non molto piacevole, insomma la sua storia è molto molto pesante, molto triste, nonostante appunto la sua straordinaria voglia di esprimere e di essere naturalmente se stessa. E la cover di questa band americana inserita in questa soundtrack che ci andiamo ad ascoltare adesso si intitola The Bluest Eyes in Texas. Lei è Nina Patterson. E noi in realtà facciamo che vi salutiamo anche qui con questa ultima nostra connessione, quindi rompiamo il gioco delle hot di Viama 7, quindi all'inizio dell'anno prossimo la connessione sarà la mia. Noi vi auguriamo anche di passare delle like, buone feste, dei buoni giorni con chi volete voi, con chi vi piace di più, e ci rivediamo nel nuovo anno. The Chart. A presto. Ciao a tutte. Sun was setting low, and in the rearview mirror.